Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno da tutta la redazione di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che dal 2012 cerca di ispirare a vivere, pensare e agire senza crudeltà. Siamo arrivati alla puntata numero 483, nella quale voleremo a volo d'uccello su esseri che muoiono onorati e altri che vengono sfruttati nel silenzio. Ma per fortuna c'è chi si accoppia e prolifica. Se volete saperne di più, ascoltate la puntata. Come tutti i veri alpini, anche il generale Iroso non è morto, è semplicemente andato avanti per stare comunque per sempre nei nostri cuori. Tante volte ci siamo incontrati con Iroso e ogni volta era come ritrovare un vecchio amico, non solo un animale da accarezzare e rispettare. Sono le parole che abbiamo letto su tutti i mezzi di informazione social compresi, con cui il governatore del Veneto Luca Zaia, a fine aprile, ha ricordato Iroso, ultimo mulo alpino rimasto in vita, morto a 40 anni, con la matricola 212 ancora stampata sullo zoccolo. Come avviene in questi casi, è il singolo animale ad essere esaltato, che non è uno dei tanti ma è l'eroe. Infatti, a proposito di Iroso, si legge che mostrava una fierezza straordinaria, simbolo di molti valori come l'alpinità, la storia del nostro territorio, l'identità del Veneto e delle genti di montagna. In realtà, la vita di questo mulo è un'altra storia di sfruttamento animale, finita bene anche se forse, chissà, Iroso avrebbe preferito un'esistenza più consona alla sua natura. La nuova indagine di Essere Animali, che potete vedere sul sito essereanimali.org, mostra cosa succede a dei macachi rinchiusi nelle gabbie di uno stabulario presso un'importante università italiana. Il video mostra la vita di questi in piccole gabbie metalliche completamente spoglie. Inserite nel cranio e nelle tempie hanno degli elettrodi necessari per gli esperimenti di neuroscienze a cui sono sottoposti. Una vita di totali privazioni che porta molti di loro a comportamenti stereotipati come muoversi avanti e indietro nella gabbia, leccare compulsivamente le pareti e mordere lucchetti e sbarre. Le immagini mostrano l'infinita tristezza in cui vivono. Sono circa 600 i laboratori autorizzati dal Ministero della Salute a compiere esperimenti su animali. Si tratta di centri di ricerca pubblici o privati situati all'interno di aziende farmaceutiche, università e ospedali. Anche se anno dopo anno il numero totale di animali utilizzati per la ricerca scientifica è in graduale diminuzione, è da segnalare un aumento di ricorso ai macachi. Se nel 2015 ne sono stati utilizzati 224, nel 2017 il loro numero era di 548. I macachi più utilizzati nei laboratori italiani provengono da allevamenti di Cina, Laos, Vietnam e Isole Mauritius. Sono nati in gabbia, ma buona parte di loro provengono da madri appena catturate nella foresta, pratica necessaria per continuare ad avere una buona genetica negli animali, che si impoverirebbe con troppe generazioni in cattività. La nostra trasmissione ha più volte affrontato il tema sull'utilità di finanziare e incoraggiare altri metodi sostitutivi, facendo conoscere cosa si muove nel mondo della sperimentazione, ma purtroppo certe abitudini sono dure a morire. Adesso vi proponiamo un'intervista fatta da Lorenzo Guadagnucci a Franco Sacchetti, autore di un'interessante graphic novel dedicata ad un uccello di cui ha parlato anche Eugenio Montale. Il libro si chiama Dove i rondoni vanno a dormire. Siamo con Franco Sacchetti, autore di questo bellissimo libro, una graphic novel, Dove i rondoni vanno a dormire, edito da Round Robin. Franco, che cosa hanno di speciale i rondoni? Beh, i rondoni sono degli uccelli straordinari perché, diciamo, come dice il titolo, dove i rondoni vanno a dormire indica di fatto il cielo, perché sono animali che dormono in volo, mangiano in volo, bevono in volo, si riproducono, insomma si accoppiano, diciamo, in volo, e hanno una serie di record strabilianti, quindi sia la possibilità di volare per 2 anni senza mai posarsi, sia il record di velocità nel volo piano, sia la distanza che possono realizzare in una giornata di volo, quindi fino a 1000 chilometri. E la cosa più straordinaria di questi animali, se mi permetti, è quella di vivere nelle nostre case, cioè di condividere con noi un periodo della loro vita che, insomma, è l'unico nel quale non stanno in volo, cioè il periodo della nidificazione, che avviene principalmente nelle nostre case o nei nostri monumenti. E il fatto che noi abbiamo degli esseri così straordinari, anche così utili, perché un nido di rondoni può mangiare fino a 20.000 insetti al giorno, inclusi anche quelli nocivi come le zanzare, insomma quelli fastidiosi, diciamo, mosche, eccetera. Beh, il fatto che un essere così straordinario viva nelle nostre case senza che noi ce ne rendiamo conto è veramente un peccato, insomma, ci invita a riconsiderare, diciamo, il nostro rapporto col mondo che ci circonda e con l'ecosistema, insomma. Questa è una storia a fumetti piena di informazioni tecniche, scientifiche, storiche sui rondoni. Come lo possiamo definire? Un romanzo scientifico? Perché è una storia a fumetti? Sì, lo possiamo definire un graphic novel, o più, diciamo, italianizzato, un romanzo grafico, perché è una storia che, diversamente dal mio libro precedente, Fratini d'Italia, che era un reportage grafico che parlava degli attivisti che cercano di salvare i nidi di Fratino, che nidifica il poverino sulle spiagge proprio quando comincia la stagione balneare e quando magari anche personaggi come Jovanotti pensano di poter fare i concerti sulla spiaggia. Nel caso di Dove vanno a dormire c'è proprio una storia, cioè di una protagonista, un personaggio diciamo di fantasia, ma che è chiaramente ispirato a delle persone che ho incontrato durante questo mio giro di conoscenza dei vari gruppi di attivisti che tentano di tutelare le colonie di Rondoni. E quindi c'è una protagonista che è una ragazzina di 10-11 anni che si chiama Zoe, e diciamo attraverso il viaggio di questa protagonista, il salvataggio da parte sua di Rondone, si aprono tante finestre tecnico-scientifiche che fanno conoscere sia la storia naturalistica di questi uccelli, sia quelle che sono le azioni da mettere in campo per tutelarne la presenza nelle nostre case, nei nostri centri storici. Ecco, a questo proposito c'è un problema architettonico forse, questo è il punto principale, o c'è qualcos'altro che preoccupa per la sorte dei rondoni nelle nostre città? Beh, diciamo, le preoccupazioni sono legate in generale alla tenuta degli ecosistemi anche, quindi c'è questa tematica della scomparsa degli insetti, dell'estinzione degli insetti che preoccupa molto e può condizionare tante specie, non solo i rondoni, e quindi anche le disinfestazioni chimiche e così via. Ma per quanto riguarda loro in particolare, dato che i rondoni utilizzano le cavità dei nostri edifici, che possono essere le buche pontaie, le cavità dei sottotegola, quello che è diciamo il calcamuro, cioè lo spazio che c'è tra lo spiovente del tetto e il muro, diciamo la parte dove poggia il tetto, dove ci sono sempre spesso delle fessure, delle cavità. Ecco, la tendenza a sigillare i nostri edifici quando si tratta di restauri e a creare degli edifici privi di quelle cavità, che poi forniscono anche salubrità agli ambienti architettonici, quindi sono importanti anche per la nostra salute, sta generando un progressivo declino di questa specie. Il rondone, che da secoli nidifica nelle nostre case, e rimane vittima di questa lotta al colombo, che può essere effettuata, diciamo, senza poi essere neanche troppo crudeli nei confronti dei piccioni, facendo semplicemente delle cavità selettive, cioè chiudendo solamente una parte di queste cavità, lasciando uno spazio sufficiente a far passare i rondoni e invece escludendo diciamo i piccioni, che sono più grossi e quindi non possono entrare. Questi sono metodi applicati nella Torre Ghirlandina di Modena, diciamo dall'associazione Monumenti Vivi, in particolare Mauro Ferri, che poi mi ha collaborato molto nella parte scientifica di questo libro, cioè sia lui sia Roberto Tinarelli, che l'associazione Festival dei Rondoni, mi hanno fornito ecco il supporto scientifico per questo lavoro. Ecco. E forse, non so, credo che in Italia fumetti ornitologici con questo taglio non esistano, quindi è importante farli anche per dare giusto spazio a tutti gli attivisti che si impegnano, che non sono molto visibili. Franco Sacchetti, Dove i rondoni vanno a dormire, Round Robin Editore. Oh, restare in tema di rondoni, signore e signori, vi propongo la Band Osiris, che accompagna la voce di Eugenio Montale mentre recita la sua Il Rondone. Mi pare di essere Pippo Baudo al Festival di Sanremo. Rondone raccolto sul marciapiede aveva le ali ingrommate di catrame, non poteva volare. Gina che lo raccolse, sciolse quei grumi con batuffoli d'olio e di profumi, li pettinò le penne, lo nascose in un cestino appena sufficiente a farlo respirare. La guardava quasi riconoscente da un occhio solo, l'altro non si apriva. Poi gradì mezza foglia di lattuga e due chicchi di riso. Il giorno dopo all'alba riprese il volo, senza salutare. Lo vide la cameriera del piano di sopra. Che fretta aveva, fu il commento, e dire che l'abbiamo salvato dai gatti. Ma ora forse potrà cavarsela. Restiamo Animali da anni vi propone sfiziose idee per mangiare in modo vario e sano grazie alla diabolica mente del nostro Toscan Vegan Chef Gabriele Palloni nello spazio denominato Il Pasto Gentile. Se qualcuno ha ben pensato di dedicare ai rondoni delle tavole di una graphic novel, il vostro tosco vegan chef di quartiere ha pensato ad un piatto che, come la golden hour nella fotografia, porterà sulla vostra tavola una bella sfumatura di colore. Ingredienti per 4 persone per il rolls di crespelle in sfumatura di rosso sono 200 g di farina di ceci, 100 g di farina tipo 0, olio extravergine di oliva, 400 g di patate lessate e schiacciate, 200 g di passata di pomodoro, uno spicchio di aglio, 200 g di carote lessate, un cucchiaio di tahina, mezzo cucchiaino di cumino in polvere, un cucchiaio di succo di limone, 200 g di silken tofu, 50 g di panna di soia, mezzo cucchiaino di aglio in polvere, un cucchiaino di curcuma in polvere, mezzo litro di besciamella vegetale, sale e pepe. Iniziate preparando la pastella per le crespelle. Unite la farina di ceci e quella di frumento, un pizzico di sale e diluite con acqua a temperatura ambiente fino ad ottenere un impasto liscio, cremoso e abbastanza liquido che lascerete riposare per un'ora. Nel frattempo fate rosolare mezzo spicchio di aglio con olio extravergine, unite la passata di pomodoro, aggiustate di sale e fate concentrare a fuoco lento. A parte, con un frullatore a immersione, tritate le carote assieme alla tahina, il succo di limone, mezzo spicchio di aglio, il cumino in polvere e un cucchiaio di olio extravergine. Infine, mescolate il silken tofu con la panna vegetale, la curcuma e l'aglio in polvere. Dividete le patate lessate e passate in tre parti e mescolate ogni parte con le tre preparazioni, ottenendo delle farce di colore diverso, rosso, arancio e giallo. Riprendete la pastella e con una padella leggermente spennellata di olio realizzate delle crespelle. Riempitele con le differenti farciture, arrotolate e tagliatele a rondelle alte un centimetro circa. Versate la besciamella vegetale in una teglia da forno e disponete le rondelle sovrapponendole leggermente una all'altra, seguendo la sfumatura dei colori, fino a riempire la teglia. Passate un filo di olio extravergine sul tutto e fate cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti. Sicuramente in molti abbiamo letto con orrore della morte di migliaia di cuccioli di pinguino imperatore che, non sapendo ancora nuotare, sono morti affogati dopo lo scioglimento anticipato dello strato di ghiaccio su quale si erano stabiliti nel mare di Weddell, una vasta area dell'Oceano Atlantico a ridosso dell'Antartide. Il drammatico evento lo si apprende da un articolo pubblicato sulla rivista Antarctic Science, a cura dell'organizzazione governativa britannica British Antarctic Survey. Secondo i ricercatori, l'episodio è avvenuto nel 2016, quando forti venti hanno scavato la parte più sottile della piattaforma. Il resto lo ha fatto il rialzo della temperatura. Assieme al blocco di ghiaccio sono andati a picco anche i pinguini imperatori che si erano stabiliti a Brant. Così è stata cancellata dalla mappa la colonia delle baie di Halley, la seconda più grande al mondo. Nei momenti migliori la popolazione di questa colonia era costituita da 25.000 esemplari, che dopo quel drammatico incidente è pressoché scomparsa. Gli scienziati ribadiscono che tutto questo è la conseguenza del riscaldamento globale. La mancata riformazione di strati di mare ghiacciato, vitale per pinguini, uccelli, animali marini, sarà la conseguenza di una perdita di queste specie tra il 50 e il 70% entro la fine del secolo. Nessun commento può essere aggiunto a questa triste notizia. I am walking through Rome with my heart on a string, dear God. Please help me. And I am so very tired of doing. Una buona notizia per chiudere in bellezza. La sezione Lipu di Rende, che dal 2003, nell'ambito del progetto Cicogna Bianca Calabria, segue insieme al gruppo Life Choose Nature la nidificazione di questa specie nella regione, informa che è aumentato il numero delle coppie nidificanti di cicogna bianca. Non di uno o due unità in più, come solitamente avveniva ogni anno, ma bensì di 6 coppie in più rispetto al 2018. Allo stato attuale sono 20 le coppie presenti nella piana di Sibari, 7 nella valle del Crati e una nel Crotonese. Speriamo che il numero di coppie continui ad aumentare in modo esponenziale. Siamo arrivati al capolinea di questa puntata, vi saluta la nostra variegata redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Camilla Lattanzi e Giuseppe Coco, la voce che vi ha accompagnato. L'appuntamento con la puntata numero 484 di Restiamo Animali tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.